Anna Salino, mi chiedevo che fine avesse fatto la 27. E ancora non ho piazzato l'antenna, Marco. È ancora così. Un uomo ci raccontano. Devo piazzare l'antenna, ce l'ho messa bassa. Se ne accorgerà il segnale anche. Sì, tu arrivi a 8. Cos'è questa risonanza che sento? Aspetta che leggo. Ecco. Ti volevo dire, io ogni tanto accendo, ma giorni e giorni o settimane che non sento più nessuno da lì. Infatti ti avevo scritto, la 27 che fine ha fatto? Vabbè, purtroppo me l'aspettavo. Sì, cosa vuoi fare? Io ho un piede che mi si gonfia e mi ho dovuto mettere la calza elastica, figurati. Io pure accendo sempre, ma non sento a nessuno mai. Un piede che mi si gonfia, avevo capito, un PL che mi si gonfia, ho detto come si gonfia il PL? Un piede. Ma come mai? Flebite o caldo o altre cose? Ma deve essere per via del caldo. Adesso ho questa calza elastica che me la tolgo solo la notte. Io ho preparato il caffè, ma ce lo beviamo freddo. Stavo per fare roba, devo allargare un cinturino di orologio, devo fargli un paio di buchi in più. E poi anch'io, Natali, sono un po' barricato a casa, quando c'è caldo, giusto quei giorni di freddo sono uscito di più, anche per conto mio. E tutto qua, che te devo dire? E a me mi si era rotto un tubo dell'aria condizionata della macchina, e meno male già l'ho aggiustata, e adesso funziona. Da me va caricato il gas. Il gas è sempre che non abbia perdite l'impianto. Però cioè, ti vale più il gas che tutta la macchina. Per quanto il motore vada bene, infatti io ho già spiammato a fare commissioni. La macchina la uso una volta ogni 10 giorni, seppure. Alla fine stiamo pagando assicurazione, tutto, revisioni per nulla. Io non lo sapevo, se no perché ho dato il gas a Franco, quello che è avanzato, se no lo facevo caricare a te, nella macchina tua, capito? Non andare, così. E a me ce l'avevo marcio, si è marcito un tubo e l'ho dovuto comprare nuovo. Cavolo, l'hai fatto tu poi? No, io non saprei da dove cominciare. E poi bisogna verificare se l'impianto ha perdite, cioè loro lo mandano un po' in pressione, vedono se la pressione sfoga da qualche parte. Se no, a parte il gas, devi pure rattoppare, bisogna vedere se funziona bene il compressore, se funziona correttamente. Insomma, alla fine ho detto, magari lo faccio qua. Certo che per me è diventato deleterio il caldo, ogni anno che passa, per questioni così fisiche mie, di roba di ormoni e cose. Penso che dopo che mangio mi vengono queste caldane che non ti dico. Che ti devo dire, vabbè. Quindi tabula rasa qua, non c'è un'anima. Io le rare volte che accendo, perché non sto più accendendo come prima fisso, oggi avevo acceso, ho lasciato acceso, quant'è, mezz'oretta, sono andato in cucina, ho sentito una musichetta, addirittura credevo fosse ricevitore in qualche altra banda. Ma ne ho capito, no, io non posso più manco ascoltare perché piatto solo l'antenna del baracchino e l'antenna TV nello stesso palo, perché mi ha crepato anche l'antenna TV quel coglione, e l'ho comprata nuova, ce l'ho qui già piazzata, pronta a piazzare. L'impianto dell'aria condizionata l'ho dovuto aggiustare per forza, perché al caldo non posso stare io, no? Con il fatto che ho avuto, se fa molto caldo non posso uscire in macchina. Anch'io lo tollero poco, proprio mi manca l'aria, mi viene panico, eccetera. Poi per adesso, vabbè, novità, che novità, no, qua siamo in un limbo, poi tra ho letto l'estate, se non vai al mare è brutta, è una brutta di balle. Oh, qua è tutto chiuso, sembra una città bombardata qui. Bar chiusi, farmacie, pellicole chiuse, un bel di gente ha chiuso, tutti in ferie. Capito, hanno iniziato da ieri. O da lunedì anche, capito? Sì, infatti, io adesso, siccome Franco è in Francia, e quando rientra la piazzeremo questo cavolo di antenna. Tanto quello ha perso tutto il tetto, perché se lo sta aggiustando. Quindi se quando Franco rientra, ovviamente gli inquirenti piazziamo, tanto non è che ci vogliamo piazzarla, ho le tappe già pronte qua, appena piazza le tappe ce la schiaffiamo su. E non sappiamo. Eia, sempre che ne valga la pena mi natta lì, cioè, alla fine c'è l'antenna come qua, e poi non c'è nemmeno nulla da ascoltare alla fine in 27. Vabbè, nelle altre bande non sto ascoltando, in HF non sto ascoltando, il ricevitore, quello VU che ho a fianco è con l'antenino interno, quindi prendo poco e niente. Sì, a me mi si è rotto un radialino della X30 e non è piatto, non me ne ribatto nulla. I radiamatori mi hanno proprio deluso, quindi non piazzo più nulla, piazzo solo l'antenna di qua. Se entra la gente parlo e se no spengo tutto e via. E chi se ne frega, cosa vuoi dire? Per capire cosa davvero ci sia dietro. Io già accendo. Se entra qualcuno già parlo. In inverno dovrebbero rientrare. La gente se ne starà andando in giro adesso. Sì, chi più chi meno, vabbè, se è proprio passato a Ferragosto, molta gente avrà preso le ferie, chi può va fuori, no? Chi col camper, chi insomma fare un po' di viaggi, che ne so io. Sì, infatti, quando inizia il fresco che la gente rimane a casa, già dovrebbe rientrare la gente, cosa vuoi che ti dica? Parenti, amici, sequestrati. Ma tu sei solo? Sì, c'è il televisore acceso, magari sentirai quello. Si sente un bel. Ti ho detto, all'inizio ho sentito una musichetta, ho detto, ma quale banda era? E poi, vabbè, che altro? Che te devo dire? A te io lo spengo, tanto sono da solo e non lo sta guardando nessuno. Ecco qua, fatto. Ogni tanto, vabbè, dalle volte che accendo, certe volte è propagazione, un bel di gente di FM, di tutto, tedeschi, francesi, persino gli spagnoli in FM, a giorni alterni però, certi giorni è notevole anche la cosa, certi un po' meno. E poi che altro, cosa mi posso inventare? Già vedo sempre i saluti mattinieri, li vedo sempre. Oggi l'ho beccato al volo, anzi, quando l'hai mandato. Cosa ti volevo dire? Io la sto piazzando di nuovo l'antenna, anche per poter sentire, adesso non sento nulla. Né propagazione né nulla, è troppo bassa l'antenna, no, non fa. Quindi evitavo anche di entrare. E cosa entro a fare? Non sento a nessuno, solo quelli di vicino. Sì, le stazioni Sassari magari sì, è che siamo veramente quattro gatti. Cioè, a parte chi era che entrava sul 10? Io, tu, Gianni, cioè più assiduamente, non dico assiduamente perché anch'io sono uccello di bosco, ogni tanto mi assento, ma ogni tanto Luca Flipper entrava, faceva capolino, troppa poca gente comunque, dai. Non ha più gara nessuno, mi natta lì, è un hobby in via di estensione, questo è il baracchino. Sì, cosa vuoi ti dica? Io mi piazzo l'antenna così sento la propagazione, me ne vado a 555 e parlo lì, se non entra nessuno, cosa vuoi ti dica? Comunque, lo sai che tra tutti i baracchinetti, alla alla fine sto lasciando quasi sempre solo questo. Il famoso presidente Taylor IV, famoso che non lo è un baracchinetto MFM, tipo omologato, cioè MFM 4 watt, è un po' piccoletto ma non troppo, c'ha le cose base, Smith la lancetta, e mi sta piacendo più questo che altri. Semplice coso, c'ha la comodità dei tasti, dei canali sul microfono, non devi stare a raggiungere la rotella, per esempio se sono di spalle e do le spalle al baracchino, sdraiato sul divano, capito? Sì, infatti, io c'ho solo questo, lo stesso. Cosa? Mi dispiace per quel 3009. Quelli lì hanno modificato tutta la scheda madre e i pezzi non combaciano con quelli vecchi, capito? Sono pezzi diversi ed è un macello, non si può più aggiustare, va a fanguarla. Poi mi avevi detto che era una versione un po' vecchia, cioè non era le ultime schede come ce l'avevo io, EPT 3615C, ma era retro, una scheda retro, è come se fosse una cosa... vabbè, è stato scorretto lo spagnolo, a meno che non gliel'abbiano sostituita, che abbiano maneggiato dentro qualche cliente, poi l'ha restituito, no, già lo sai. Succede anche con Amazon, succede anche con roba, con altri rivenditori, anche a Sassari succede, microfoni da tavolo, capito? Usati restituiti, usati saldature a cacchio di cane sui pin del microfono, poi restituito. Ma cosa vuoi che ti dica? Purtroppo facendo quell'acquisto ci ho rimesso io, e cosa vuoi che ti dica? I pezzi sono completamente diversi dal vecchio 3009, perché l'ha guardato bene quella persona e hanno modificato tutto. Ma che vuoi che ti dica? Purtroppo è andata così. Ma già c'ho questo che va bene, là. Purtroppo adesso c'ho stazionari, eppure, perché è troppo vicino al muro, all'antenna, non posso alzare manco la potenza, se no mi alzano anche le stazionari. E a quanto sono? Aspetta, te lo dico. Adesso sono a 1,2, però se alzo poco poco se ne salgono più di 1,5. Irrilevante la tariffa, assolutamente irrilevante. Te l'ho detto io con vari apparati, col 3009, anche con questo mi è capitato. Ho trasmesso 2 o 3 secondi senza PL proprio, senza PL. Ho detto, ma come mai? Ho detto, sta salendo in modo anomalo qua. Ripremo, ho detto, boh, non funziona qua, non ricevo, guardo c'era il PL staccato. E come vedi c'è una resistenza a baracchini che credo che per bruciarlo uno ci debba mettere proprio l'impegno, avendo un'antenna collegata. Poi te l'ho detto, sotto il 2, a meno che qua sotto il 2 non credo ci sia problema, tantomeno da 1,5 sotto 1,5, capito? Certo, dopo il 2 magari se fai passaggi falconiani qualcosa scalda, ma dubito mica che uno riesca a rompere il baracchino, a bruciare i finali. Se ci vuole proprio impegno per bruciarli. Sì, già lo bruci con le stazionarie, scaldano i finali. Cosa vuoi ti dica? Ma questo già va bene il baracchino, là. Non vedo l'ora che riesco a piazzarmi l'antenna sul tetto, così è tranquilla la cosa, sento a tutti e riceverò anche meglio perché è molto più in alto, la piazzo sul torrino proprio. E io, sperando che qualche disgraziato non faccio azioni di forza, se no bisogna davvero appenderlo all'antenna, capito? Come contrappeso, per il collo. Questo è poco ma sicuro. Quando la piazzo lo minaccio. E questa volta mi vendico. Se fa qualcosa è fregato. Perché mi vendico malamente. Che poi questo non è nemmeno proprietario, è uno di passaggio. È possibile che non si tolga dalle scatole? È un affittuario, no? Sì, via. Ma dovrebbe stare buono, gli ho detto fatti tornare l'antenna mia, che io me l'ho comprata nuova, te la metti lì. Dove c'è l'antenna che hai che marcia quella, ti fai tornare l'antenna mia e te la piace, gli ho detto. Non c'è bisogno né di amplificatore né di niente. Così almeno speriamo di togliercelo dalle balle. Via, poi per il 3009 io stavo pensando, cioè noi vantiamo tanto che comunque gli apparati con i componenti classici si aggiustano con facilità, no? Noi diciamo che gli SMD non li ripara nessuno, ma a quanto pare anche il 3009 non li ripara nessuno. Poi ricordati, anche se hanno cambiato pezzi, una volta che tu hai lo schema di quella versione della scheda madre, quando è lo schema giusto di quella scheda, basta leggere dallo schema i componenti originali e ripristinarli tutto lì. Diciamo che non ne più vuole fare più nessuno, non ne ha voglia nessuno di stare a rompersi le scatole dietro ai baracchini. Ma tu avevi tentato anche con quello dei paesi, quello dove è stato Carlo anche, ricordami il nome, e il paese anche. Sì, già ho capito che stai dicendo, no. Ma questo ne sa, quel pezzaio ne sa più di Ghisu. L'hanno proprio modificata la scheda madre del mio, hai capito? Gli hanno messo pezzi diversi e se non hai lo schema non fai un cacchio. Perché è uno schema diverso dal 3009 normale. Ma io i componenti posso capire, ma non possono aver rifatto le piste, cioè non possono aver ricostruito o modificato le piste. No, hanno modificato la scheda madre proprio. Non è la scheda madre che ha quello che hai tu, per esempio. E ci hanno messo componenti diversi per renderlo omologato. Quindi praticamente non si può fare nulla nel mio. Perché se non hai lo schema originale e non sai i componenti che ci vogliono, non puoi fare nulla. Ma non me ne sbatte nulla, c'ho questo qui che va bene, Marco. Meno male che me l'ho comprato, qua a Fangualla. Poi per quanto l'ho pagato. Vabbè. Adesso non si trovano più classici, c'è quello nuovo, quello con la scheda, poi del 2009, no? Del 5.5, quanti 5 ha? Non mi ricordo, vabbè, quello lì. Però non è più un 3009 come lo intendiamo noi, c'ha la forma del 3009. Comunque molti l'hanno vantato, ricezione è bella come quello lì, il 5555, come lo vuoi chiamare, il CRT 6009. Hai solo l'aspetto del vecchio, poi tu non sai manco quello che c'è dentro, cioè non lo vedi che SMD, tu lo usi, va bene in FM, va bene SB, è molto più stabile dei vecchi 3009 o Pluto, come le vuoi chiamare, che slittavano malamente in frequenza, cioè da quando l'accendevi a quando scaldava si volava di 400 anche più Hz, dipende dalle versioni, finché non si stabilizzava quasi proprio a caldo, capito? Gli altri invece accendere già sintonizzato, non aderiva, siamo di pochissimi hertz, seppure hertz, non decine di hertz, è una cosa, hanno tolleranze migliori, non lo so come dire, però è inutile anche fare acquisti 70 alla 27 langue, se capì. Un attimino che porto il caffè a mamma. Ok, io sono qui. E chi me? Caffè normale fatto con la macchinetta, fatto raffreddare in freezer, sembra shakerato, sembra un bijou. Quello già è buono. Cioè, o per meglio dire, non caffè proprio normale, caffè decaffeinato comunque, però fatto in capsule, quindi è bello, bello saporito, profumato, però freddo e spettacolare. Lo so, alleluia. No, io questo non mi posso lamentare, già va bene così. Sì, anche troppo ce n'è. Poi mi sto ristrutturando la casa, me la sto tingendo, adesso vediamo un po' col disinfettante. gennaio facciamo bene i muri e poi pitturiamo. Sì, e almeno asciuga in fretta. In estate asciuga in fretta. Ma ti volevo dire, ma tu cos'hai come... per rinfrescarti a casa cosa usi? Ah, c'ho il ventilatore io, quelli a pedana. Sì, praticamente anche noi andavamo a ventilatore. Allora, il... come si chiama? Quella lì, guarda, è chiusa nella busta ancora. Il condizionatore portatile non lo sto usando, perché se lo uso non so perché, ma sento quest'aria molesta, forse non è deumidificata, che cavolo ne so, non mi ci trovo. Avevamo preso per quei giorni caldi raffrescatori che ti danno un po' l'illusione, per esempio io che sono in boxer, quindi a pelle nuda, quando ci metti l'acqua ghiacciata, ti arriva quest'acqua, quest'aria raffreddata, è anche un po' umida, quindi a pelle nuda ti dà l'impressione che sia più fresca, l'impressione, però poi ti tira su l'umidità della camera, molto, te l'aumenta. E se tu vieni dopo tutta la sera che lo usi, se entri da un'altra camera e rientri in quella camera lì, ti accorgi che l'aria è pesante, sembra di essere i tropici, è umida e calda dopo tutto, perché l'aria, la temperatura non te la rinfresca dall'ambiente. Se dà l'illusione della freschezza, della frescura, giusto quando ti arriva l'aria fresca e umida sulla, addosso, lì. No, perché qualcuno si illudevano con 70, 80, 90, 100 euro di avere un vero condizionatore, non è così. Poi ci sono quelle truffe anche televisive e anche online, dove ti spacciano un volgare raffrescatore d'aria per condizionatore. Ce lo scrivono, il condizionatore d'aria, 30.000 BTU, ti rinfresca una casa da 120 metri quadri, quelle sono vere e proprie truffe, perché stanno dichiarando delle cose false. Oh, già lo credo. Il vero condizionatore era quello che avevo in campagna io, 12.000 era, ma l'avevo comprato e fatto funzionare per mia madre, mica la potevo far morire di freddo o di caldo, capito? Però ti usciva ogni bolletta, oiui, 500 euro di luce, scherzando stai, adesso non me lo posso permettere, se no già me l'avrei messo un condizionatore. Se metto il condizionatore qua me ne devo fuggire io, e chi la paga la luce? Anche quello temo, però più che altro non mi ci trovo, a parte che serve solo per una stanza, cioè io se lo metto in camera da pranzo qua dove sono io mi rinfresca un po' questa, ma il resto della casa rimane caldo. E qua la camera del computer, il bagno, camera mia, camera di mamma, lo sgabuzzino, la camera da pranzo, la cucina, il secondo servizio e l'altro stanzino, quindi mi scalda una camera, quella centrale e l'altra rimangono calde, e io sto avanti e indietro, quindi è inutile anche metterlo. E poi a dirla tutta, noi non siamo abituati né a temperature, cioè né ai condizionatori spinti, non siamo proprio abituati, anzi ci fa più male che altro, e nemmeno al caldo eccessivo, perché noi in inverno, se quando andavo da amici che avevano il termosifone, un forno, queste case un forno, io dovevo, arrivavo da fuori, no, in pieno inverno tutto coperto, entravi a casa di questi e dovevi stare in maglietta a casa loro, ti dovevi spogliare completamente perché era un forno, era anche malsano a dirla tutta. E infatti, io da poco c'avevo addirittura un dolore al femore che mi crepava, non potevo stare, e il dirimpettaio mi ha fatto le iniezioni, anche le iniezioni, saprare, dimmi tu. Me le ho fatte ordinare dalla dottoressa e grazie a Dio mi è passato grazie a quelle punture. Cazzo, quello lì sa fare di tutto. Buono, buono. Ma cosa hai fatto? Voltaren? Sì, sì, iniezioni di Voltaren. Cavolo, ma mi hanno fatto bene veramente, non ne ho più dolore. Cazzo, un dolore al femore. E poi c'avevo la gamba che non mi arrivava sangue. A una parte c'avevo il dolore del femore, all'altra non potevo camminare, fa cosa c'avevo quel dolore solito che mi viene se cammino troppo, figurati. Ma vabbè, siamo da rottamare, Marco. Ancora non ho beccato la pensione perché me ne manca un anno ancora. Adesso il 29 faccio 66, nel 2024 mi tocca la pensione. Ah, cioè stai dando i contributi ancora, eh? E poi la pensione arriva? Sì, la pensione arriva a 67 anni, non me ne davano a me se non raggiungevo i 67 anni, capito? Ascolta, ma tu per i lavori che avevi fatto, no vabbè, ma sto parlando di mille anni fa, cioè, quando tu eri pasticcere, così eri iscritto agli artigiani, che categoria era la tua? Eri iscritto alla, beh, già capito, come artigiano, già capito cosa intendo. Sì, come artigiano, le pensioni più basse che esistono sono tra artigiani e commercianti, prendono pochissimo. Poi contributi me ne ho presi perché mi prendevo la disoccupazione quando entravo a lavorare e quindi mi sono spariti anche i contributi e non ne ho. Quindi mi danno la pensione, l'assegno, ma si chiama assegno sociale, ecco. Quello lì mi danno, non ne ho contributi. Quando io se lo sapevo non ne prendevo disoccupazione e mi hanno fregato anche i contributi. Cioè come spariti, cioè azzerati, come che non valesse, non ho capito il perché. Sono soldi tuoi i contributi, no, solo che se tu prendi la disoccupazione te ne riscalano dai contributi i soldi che prendi, hai capito? E te la mettono nel QSO. L'INPS sono dei bastardi. Sto restituendo quei 7.000 euro. Te lo ricordi cosa mi avevano fatto l'ultima volta che sono entrato al comune? Ci ho rimesso sacco e sale. Ci ho rimesso. Ma l'ho lasciato 6 mesi senza pensione. In più devo restituire 7.000 euro. Cazzo, non so se campo a quando a restituirli. Ah, ne vogliono pure, tu gli dici, signori, soldi non ce n'è, andate in pace. No, se vogliono i contributi, i soldi adesso, quando mi danno la pensione, li denuncio e mi tornano quelli che gli ho dato, perché sono in torto loro. Capito? Vinco a mani basse, gli faccio causa, questa volta li posso nuovi nuovi, mi posso durare i dinari e l'aggiudarmi, già. Vedrai tu. Tanto l'Inps perde sempre, perché hanno sempre torto. Ho capito. Ah, ecco cosa ti volevo raccontare. E avevo preso una telecamera per interni però, della marca tua, Edgewiz era la tua. Edgewiz, così si scrive. È spettacolare, nonostante sia solo Full HD, quindi un po' di 3 anni fa il modello, poi sono usciti altri modelli, sì, con tanti megapixel. E devo dire che è eccellente, perché praticamente lei registra su scheda oppure salva su cloud, quindi anche se entra il ladro e vede la telecamera e la ruba, i dati sono già salvati su un server estero o esterno, non so se sia in Italia o fuori, e tu con l'applicazione accedi al server, vedi fisicamente chi è entrato e chi ha anche rubato la telecamera. Poi puoi vederla in diretta dall'altra parte del mondo. Ieri eravamo in campagna a Gozzovigliare e praticamente con lo smartphone mi collegavo e vedevo in diretta quello che succedeva in casa. Potevi salvare video al volo, da remoto, cioè salvarti sullo smartphone e non sulla telecamera. Salvare foto, comandare, orientare la telecamera come volevi tu, potevi anche parlare come fosse una telefonata attraverso la telecamera, e quella la terrò per tenere d'occhio mamma, anche no? quando io sono fuori, per vedere che vada tutto bene, eccetera. Insomma, un bijou, Natale, un bijou, costano una miseria, costano tipo 29 euro, ma fanno un saccaccio di roba. Altro che quelle, io ero rimasto a quelle IPVR, quelle col cavo, CCTV, quelle telecamerine di Kikia, che attaccavi con gli spinottoni RCA, ero rimasto a quelle lì. No, no, tutta un'altra cosa sono queste, io ne ho tre. Ne ho una qui dentro, una fuori e una fuori dall'andittino. Una è per esterni, quella che c'ho fuori è per esterni, capito? Invece ce l'ho fuori dalla porta qua, una qui dentro, quindi entrino se vogliono entrare. Ah, tant'è che puoi scegliere anche se avere le notifiche quando vede un movimento. Ieri eravamo ancora in campagna, è arrivata una notifica, mi ha segnalato una notifica di movimento, ho detto, oh cacchio, e se non è il gatto? E beh, cos'era? Era una micro farfallina, se tipo le tarme, quelli che vanno negli armadi dove tieni la pasta, una piccola farfallina che era passata davanti all'obiettivo e siccome c'era l'illuminatore infrarosso, è risaltata molto, in bianco, no? E ha segnalato il movimento anche di quella. Ehi, anche questa lo fa, nell'andicino giù, quella fuori dalla porta segnala anche le farfalle, già è vero, è di lusso. Ne ho tre qua di telecamere, una qui dentro, una fuori in strada e una fuori dalla porta, quindi da tutte le parti è ripreso la persona. Che avevo piazzato quella di fuori della strada perché avevano rubato la bicicletta a quel dottore poverino, il mio vicino di casa. Poi hanno scassinato la moto del dirimpettaio lo stesso e allora mi sono deciso e le ho messe. Così se qualcuno rompe le balle sapremo cosa fare. Sì, quando hai filmato, se sono ladruncoli, poi in questura li conoscono tutti, basta che abbiano la faccia, magari c'hanno anche qualche software per il riconoscimento biometrico, tempo pochi giorni, una settimana e poi li raggiungono, li rintracciano, capito? E infatti qua stanno succedendo cose strane, meglio prevenire che curare. Tu già lo sai io cosa c'ho e quindi le ho messe anche per quello. Figa. Vabbè, qua non è, noi roba di valore non abbiamo, non è che qua trovi oro, gioielli, diamanti, però qualcosina di elettronica, di roba elettronica già ce n'è qua da saccheggiare, già lo sai, no? Non solo baracchini, molte altre cose, sì, un pochino di roba al settore armamenti, ma tutta roba soft, niente di che. Sì, ma io quella roba che ho io è pericolosa, capito? È meglio prevenire che curare. No, più che altro il danno, magari spaccano la finestra per entrare, poi col ponteggio qua non te ne dicomi, non si sa mai. Poi la portano le blindata, capito? Sì, c'è un passante di quelli con la serraturona, ma lì basta la bulgara, non hanno bisogno nemmeno di rompere, entrano come se fosse la casa loro. E infatti, oggi non c'è da fidarsi. Poi qua siamo nel Bronx, siamo diventati la succursale del Nord Africa, dall'altra parte ci sono tutti neri, Cosa sono? Tutti neri, siamo diventati la succursale del Nord Africa, Nigeria, di tutti i tipi ce n'è. No, non neri, negri, si dice negri. No, diversamente bianchi. No, beh, se non si offendono, ma come siamo arrivati a ciò? Boh. A me mi pare che da padroni diventiamo schiavi qua, perché ci sono più neri che bianchi. Le risorse della Boldrini quelle, né? La bagaccia di chi l'ha fatta. Ma tu pensa, se vengono qua anche a fare la fame, cioè a stare, non credo che tutti prendano sussidi. Quelli che stanno tutto il giorno buttati davanti ai market per avere la moneta. Cioè, tu immagina al paese loro che schifo di vita facevano, se per preferire addirittura questo tipo di vita che fanno qua, a chiedere l'elemosina. Poi molti avranno anche sussidi, non so come funzioni, preferisco non saperlo qua. Sì, molti. Già il reddito di cittadinanza già lo stanno togliendo a tutti, non ti preoccupare. Quelli che possono andare a lavorare gliel'hanno già tolto. Sì, mal fatto. Ti ho detto, dall'inizio prevedeva che tu facessi questi presunti corsi formativi, non si sa poi chi li facesse, perché poi nessuno li istituiva, non da noi almeno. E poi le proposte, mi pare, se rifiutavi la seconda volta te lo toglievano, ma qua hanno foraggiato senza fare corsi, senza far niente. Purtroppo qui tutte le truffe, soprattutto al sud Italia. Poi c'era anche gente che proprio con yacht, con macchinoni, ville, che andava, che si faceva vedere con le pesce al sedere per avere il reddito, cioè per, come dire, per fregare lo Stato, per fregare i poveri poi. Ah, io vergognoso. È vergognoso, sono miserabili quelli, che bisogno avevano di chiedere il reddito di cittadinanza, se erano ricchi sfondati. Ma non riesco a concepirle queste cose io. Sono veramente indignato da queste cose, ma già hanno fatto bene, l'hanno tolto a tutti e via. Aiuteranno solo la gente che realmente ha bisogno, che non può andare a lavorare, giustamente, quelli li deve aiutare, ma gli altri che vadano a lavorare, che... L'unica cosa storta è che qua, anche se fanno i corsi, lavoro non ce n'è, quello è. Perché se lavoro non ce n'è, perché glielo togli? Non ho capito. Ci sono tante cose storte, ma... Infatti poi corsi formativi, non ho capito chi li doveva istituire, chi li doveva fare, con quale modalità, boh, un po' campato in aria. E con la storia anche del 110%, una cosa boh, improvvisata, hanno cambiato dall'oggi al domani, che poi le banche sono, le banche lo sai che si autotutelano, no? Cioè quando tu modifichi da un giorno all'altro, magari retroattivamente, questa storia del 110, le banche si autotutelano, certo non tutelano le imprese o insomma chi chiede lavori, condomini, ma manco per le scatole. A proposito di scatole, Natali, sono passato più volte, sai, salendo lì alla Caro Felice, è passato davanti alla GBC, tu praticamente si vedevi l'ingresso, no? La vetrata un po' sporca, con queste scatole messe in basso, no? E adesso le scatole sono talmente una sopra l'altra che tu vedi la vetrata, l'ingresso, completamente ricoperto di scatole, cioè non sono più a livello del terreno, sono impilate una sull'altra e tu vedi praticamente scatole fino al soffitto a questo punto. È incredibile, incredibile. Io non ci vado da tanto, ma come ho visto quegli scatoloni, cioè, c'è giusto il mezzo metro per entrare, per passare, e poi guarda, non sono voluto entrare perché sennò mi impressiona. Infatti, ma neanche io ci vado. Oggi addirittura mi ho ordinato una di quelle cesuie che c'ha il mio dirimpettaio, no? Ma tu la devi vedere, è per elettronica proprio. Taglia che cosa, anche le unghie ti fai con quella. Me l'ho ordinata uguale, però me l'ho ordinata da internet. Perché intanto qua non ne hanno di quella roba professionale così. No, aspetta, cesoie hai detto, non forbici elettriche, cesoie. Sì, sì, che tagliano a zero i componenti proprio. Qui è affilata, taglia che cosa male, una pinzetta, ma tu la devi vedere, è per elettronica proprio. E praticamente tutti i tecnici ce l'hanno quella lì. Perché se devono tagliare i componenti devono avere una cesoietta che li taglia a zero proprio. Ma tu mi hai detto elettronica, elettrica anche, cioè, non è solo con la forza che fai tu, no? No, con la forza che fai tu, non è elettrica, è essere elettronica, per laboratori elettronici è questa cesoietta, è veramente carina e funzionale. Ah no, avendo sentito prima la parola elettrica, credevo, o elettronici, per componenti era, cioè, credevo faccia una cosa anche con un motorino, qualcosa che aveva qualche, una forza notevole anche per tagliare, vabbè, capito, con un motore, che ne so io. Perché l'ha prestata alla dottoressa, no, questa cesuia, io l'ho conosciuta per quello, perché l'ha prestata alla dottoressa per tagliare le unghie a un cane, no? E ce l'avevo io qua per darla a questa dottoressa, l'ho provata anche le unghie, mi sono tagliato, tu devi vedere, affilatissima, un rasoio è. No, io stavo pensando adesso a cosa, alle cesoie, quelle dei vicini urbani, o come si chiama, quello per tagliare la miele, no? Quello va bene per le unghie dei piedi. No, questa si taglia anche le unghie dei piedi, guarda, questa cesoietta è un bijou, costa una cazzata, però è di lusso veramente. Eia. Comunque, vabbè, adesso voglio tornare al discorso 3009, non c'è scampo, no? C'è possibile che non si possa ripristinare, cioè, dopo tutto è semplice il 3009, cioè, boh, io non so cosa gli abbiamo fatto. Vabbè, pazienza. È semplicemente diverso da quello che puoi avere tu, l'hanno modificato, hai capito cos'è il discorso? Non è il vecchio 3009 che me l'avrebbe aggiustato in un attimo, hanno cambiato la scheda proprio, non è la scheda del vecchio 3009, è diversa, i componenti sono diversi ugualmente. Lui se ne è subito accorto come l'ha vista, che era tutto diverso. Ah, ma tu intendi quello, cioè non è un privato che l'ha manomesso mettendogli componenti strani, io ci vuol dire semplicemente che è un'altra versione dell'EPT3006, però Natale, ricordati che di quelle schede, proprio dagli anni 80 in poi, si trovano tutti gli schemi, bisogna avere pazienza di cercarlo, però bisogna anche registrarsi, se no non te le fanno scaricare, tipo Roger K ti devi registrare. Devi avere però la versione esatta della scheda, di solito è stampata sulla scheda madre, EPT3006, e poi c'è un numero e una lettera, no? Numeri e lettere. Quella che ho io dovrebbe essere la 15C o 15F, no, 15C, la versione di quei due che ho io. Lui se c'ha l'apparato, figurati se non l'ha trovato, lo schema l'ha trovato francese lui, però non corrisponde a quella scheda lì, è stata modificata a mano. E dice una versione customizzata in fabbrica o intermedia, sai quelle versioni, potremmo dire beta, se fosse software, una versione beta, là, una versione intermedia magari tra due schede. E infatti, se no me l'avrebbe aggiustato a mani basse, subito, se fosse stato il vecchio 3009 come quello che hai tu, capito? Avrebbe cambiato i componenti perché li conosce a menadito, uno o due ne ha aggiustato di quelli lì, cazzo. Il mio è che è diverso, ma cosa vuoi ti dica, sono stato sfortunato e basta, e mi piaceva un sacco quell'apparato lì, però purtroppo è andata così, cosa vuoi fare? E Sassari non c'è qualcuno che se ne vuole disfare, che ce l'ha nuovo, la versione nuova, no? Recente, se ne vuole disfare. Per esempio non mi ricordo se Gianni poi l'avesse venduto, se ce l'aveva ancora, se se lo vuol tenere, non mi ricordo niente. No, se l'ha venduto Gianni. Ha magari la stessa versione di quella che avevo io, se mi si rompe che cazzo ho fatto? No, ma c'ho questo qui, basta questo. Tu se vuoi avere qualcosa di più già c'è qua. Non c'ho problema. Anzi, ne ho un altro che non so se è già pronto, boh, non gliel'ho più chiesto neanche di quell'altro. Già ce n'è roba. Poi non ho velità di nulla, non me ne sbatte nulla. Non sto più ascoltando nulla, anche ne ho due ricevitori, uno HF e uno uguale a quello che hai tu. Anzi, tutti e due ce li hai tu, quei due ricevitori. C'hai anche quello per le HF. Nulla, non sto ascoltando niente. Sì, ma nemmeno io, da casa. Io in realtà quello piccoletto HF lo volevo usare in macchina, quando uscivo in macchina, non in estate però, non col caldo assolutamente, però sai, in mezza stagione, c'è autunno, primavera, sono le stagioni migliori. Io lo usavo in macchina perché l'antenna era risonante, cioè te la taravi in base alla banda, 40, 80, 20, quello che è. E andando in zone aperte e libere la ricezione era sublime, sublime. A casa è più rumoroso perché qua tra siamo immersi nei palazzi, cioè, già hai capito, in città non fa proprio. Però se andavi già a San Francesco era migliore, per quanto anche lì ci passino tralicci, no, hai visto? Meno male alta tensione ne passa dappertutto. Anche andando a Scala di Ciocca, vabbè, siamo lì dove c'è la scuola, è lì lo stesso, bene o male lì niente che c'è, ma c'è un abisso rispetto a casa. A casa prende un bel QRM, poi l'antenna non è risonante, è solo un pezzo di alluminio, capito? Io ho capito, ma chi se ne frega, non ho più velleità di nulla. Qualche VX, grazie a Dio, se mi metto l'antenna sul tetto già me la faccio ugualmente. Non c'è problema. Radio Amatori non ne sto ascoltando assolutamente, neanche nelle bande alte, nulla, è tutto spento qua, c'è solo questo qui e boh, e il computer, basta. E tutti i soldi fermi. E poi, ma li avete più usati così, no? Ma vi ho detto che uno si era guastato, non si è acceso più. No, già li stiamo sempre usando. Non accendeva più, dopo ha riacceso, boh, cioè, già lo sta usando, ce lo chiamo, già mi risponde. Ehi, ma sai che ho un dubbio io? Ti ricordi che quella gomma vellutata di cui vi era fatto, c'era delle parti in gomma, c'era come spolimerizzata, era diventata appiccicosa, ho dovuto asciugarla col borotalco, ti ricordi? Sì, ma poi se voglio usare quelli lì, mi compro due di quelli 888, c'ho anche il programma per poterli programmare, Marco, e non c'è problema, e quelli vanno bene, solo che escono troppo forte quelli lì, e magari mi sentono. Quello è me, che temo che mi sentano. Invece quello là con mezzo vasto, col cavolo mi sento. Ma programmando mi pare che ci sia la potenza bassa. Oh, è passato molto tempo, però credo che ce l'abbiamo la potenza low. Boh, non lo so, non me lo ricordo. Se c'era stata la frequenza bassa, cioè la potenza bassa, me li avrei comprati due. E avrei usato quelli lì, me li avrei programmati sul canale che usiamo noi e boh, e tira a campare. Tanti acquisti anche per queste cose qua, poi sa cosa, poi questi giochi, questi così casi, io proprio non me la sento nemmeno di ascoltare, di guarda, oggi vabbè un pochino ho fatto una pausa, poi sento questa musichetta, te vediamo. È anche vero, Natalia, che quando io per esempio non potevo rispondere l'apparecchio era acceso, tipo qua acceso, io magari stavo facendo roba, no, tipo tu chiamavi, una volta ti ho sentito chiamare, attenzione 10, e la portantina di risposta, cioè tic tic, qualcuno era all'ascolto ma non rispondeva. No? Quindi tu chiami, ti fanno capire che ci sono e non rispondono però. O poi un altro episodio, chiama Gianni, chiama sul 10, è lo stesso portantino, come dire, noi ci siamo però non ti rispondiamo. Ecco perché l'ho detto l'altra volta, ho sbottato, ho detto la 27 è finita. Entri, chiami, ti fanno capire che sono tutti all'ascolto e nessuno entra a parlare, ha detto allora cioè, non ha senso, capito qual era il senso, era da lì. Lo stesso volte magari chiamavo, attenzione 10, portantine, tic tic, con via, siamo qua, però non ti diamo la soddisfazione di rispondere. E allora non ha proprio, è finita proprio la 27. E anche così mi hanno fatto, già lo so, e cosa vuoi fare? Ci sono delle persone che non vanno risposte quando entrano, già ti farò sapere, quelli lì non vanno risposti per niente, perché se entrano io non li rispondo, certe persone, già lo so io, dopo già ti dico. No, no, non voglio sapere, non voglio sapere più niente. Meglio non sapere, però appunto troppe volte io magari non potevo rispondere, stavo facendo roba oppure non me la sentivo, magari era acceso, ti sto parlando per giorni e giorni fa, cioè chiami tu, tic tic, e non risponde nessuno. Lo stesso chiamava Gianni, non rispondeva nessuno, chiamavo io, o chiamavo un altro, qualsiasi altra persona, portantino in fondo, come dire, noi ci siamo, ma non ti diamo la soddisfazione di rispondere. E ecco perché te l'ho detto, avevo sbottato per quello, ho detto, la 27 è finita, vabbè, ok. Natale, io adesso stacco, mi devo ritirare un po' di roba stesa. Poi già mamma mi sta chiamando con l'interfono, abbiamo anche l'interfono, roba di, siamo avanti di 2000 anni, roba degli anni 70, ok, dai, mi ha fatto piacere che abbiamo fatto due chiacchiere, dopo tanto, oggi me la sentivo di più anche lì, c'ho la ventola a soffitto, quindi sono qui sempre in boxer, in perigioma, quindi oggi stavo meglio di altri giorni e meno caldo, quindi avevo voglia di parlare. Ok Natale, saluta Concetta quando torna e ci sentiamo in migliori occasioni, magari più fresche occasioni, e che abbia l'antenna a posto, va bene. Ciao Marco, alle prossime, mi ha fatto piacere, salutoni in casa, guardati per me, dai. E ciao a tutti, ciao anche i 10.000 ascoltoni, ciao ciao.